We ni mtu aina gani? Gani wewe? Aujali ata. We ni mtu hivi hivi. DJ, tuende mtu hivi hivi. Oya, number three. DJ. Sasa. Ini ngoma ina gani? Dice Entertainment, mzeo. Kata sungura. Yeah. We ni mtu hivi hivi. If you, Please listen carefully.